ma per me freddo c'è senza te. E la gente passa e va, ride, gioca, scherza, ma no, non c'è nulla che valga. La mia testa in aria sta, non so più dove.